finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. E 51 minuti primi in questo istante. 25 o'clock ai controlli, come ogni mercoledì. Il nostro saluto va a chi ci precede, a prove tecniche di trasmissione e il buon Elettrodo che ci ha raccontato di Mata e Rota de Ferro al forte lo scorso venerdì. Un bello spettacolo, molta gente, ne siamo felici. Purtroppo non siamo riusciti ad arrivare al forte venerdì sera. Qui ci godiamo un po' i racconti di chi c'è stato. Sì, perché questa è Radio Onda Rossa. Dal 1977 libera, che vive grazie al contributo di tutte e tutti voi che ci ascoltate, voi che ci sostenete. In questi anni strani in cui è difficile procedere, è stato difficile procedere al finanziamento di Radio Onda Rossa in modo ordinario, ci siamo così affidati al vostro sostegno da lontano, anche per l'impossibilità di effettuare delle, di realizzare, di organizzare delle iniziative live in cui potessimo stare insieme anche fisicamente. Però insomma, in queste ultime settimane ci siamo un po' ripresi e abbiamo un po' riguadagnato il tempo perduto. E ovviamente fra pochissimo l'uscita ufficiale della Scarceranda. E intanto sabato 20 novembre dalle ore 18 L'Aperiror, l'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa. Ci trasferiamo infatti in baracchi a Burattini sabato prossimo, in quel della Snea. Cosicché Radio Onda Rossa è lieta di presentare gli aperitivi di finanziamento al centro sociale occupato giù gestito ex Snea Viscosa una volta al mese. Si inizia sabato 20 novembre dalle ore 18. In poi la radio trasmetterà direttamente la Rasnia con le selezioni di Jazz e di Salpinaz e con gli ospiti live che suoneranno durante la trasmissione. Disaccordo. I fortunati della serata del 20 sono i Bippo Baudo, Lost in Time, non sarà appunto una vera e propria cena, comunque cucina per assaggi e cocktail da bere mentre si ascolta e si vede la radio, e soprattutto mentre la si sostiene free entry. E partiamo così con gli aperitivi di Radio Onda Rossa. Forse una qualcosetta l'avevamo fatta proprio prima dei lockdown un paio di anni fa, sempre alla Snia, un esperimento così pilota che però ha funzionato in qualche maniera di venerdì. E quindi si riparte da questo 18, 20 novembre, quindi mi raccomando tutte e tutti alla SNIA. Vi ricordiamo comunque le coordinate della radio www.ondarossa.info, il sito dove è possibile scaricare e ascoltare i podcast che la radio mette in evidenza della sua programmazione. Altrettanto è possibile andare su Sostieni e andare a vedere quindi quali sono le modalità per fare in maniera che Radio Onda Rossa possa avere i vostri contributi per continuare a trasmettere. 61 80 40 01, numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185 Roma San Lollo, via dei Volsci 56, telefono 06 491 750, ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni. Detto questo, sono le 22:57 e ve lo diciamo, non parliamo più, ovvero proveremo a far parlare i clip audio durante la selezione che vi proporremo. Poi nel podcast saranno indicate le tracce che abbiamo mandato e così un po' rovinato a modo nostro, come sapete. Questa però ve l'annuncio perché è un'uscita abbastanza recente dell'estate o poco prima. Si tratta di un musicista che viene dal profondo sud, si chiama Maximilian D. Chissà che non riusciremo ad ospitare anche lui, come ci siamo ripromessi, in qualche serata live della radio. Il disco si chiama Caronte Blues Session, da cui traiamo la prima traccia che va sotto la nostra voce, Ringo, il volto della vendetta, e poi Trail of Tears. Quindi da capo Maximilian D e poi ci risentiamo alla fine. trail of death. We came along from the deserts. We came along from the gates of hell. Came along this trail of tears. We came along this trail of pain. We came along this trail of tears. We came along this trail of death. We came along from the desert sand. We came along from the gates of hell. Sì. Quando mi sono espresso severamente nei confronti del comportamento di molti intellettuali di fronte alla televisione, sa Dio che non intendevo unirmi alle critiche che oggi si sollevano contro gli intellettuali. Al contrario, in America io ho spesso constatato che molti intellettuali compiono una specie di deviazione in doppio senso. In primo luogo perché dicono che è democratico dare al pubblico quello che la maggioranza vuole, che è una visione molto ristretta, si prescinde dal contenuto delle cose e dal rapporto di questo contenuto con la democrazia. In secondo luogo perché molti intellettuali credono che proprio questa popolarità della televisione sia una nuova specie di mitologia e che da essa nascano certe nuove forze collettive di convincimento. Queste forze di persuasione hanno una finalità ideologica ben precisa, mentre gli intellettuali travestono il paradigma, compiono una specie di deviazione in doppio senso. In primo luogo perché dicono che è democratico dare al pubblico quello che la maggioranza che è una visione molto ristretta, si prescinde dal contenuto delle cose e dal rapporto di questo contenuto con la democrazia. In primo luogo perché dicono che è democratico dare al pubblico quello che la maggioranza che è una visione molto ristretta, si prescinde dal contenuto delle cose e dal rapporto di questo contenuto con la democrazia. Volevano contro gli intellettuali. Al contrario, in America ho spesso constatato che molti intellettuali compiono una specie di deviazione in doppio senso. In primo luogo perché dicono che è democratico dare al pubblico quello che la maggioranza che è una visione molto ristretta, si prescinde dal contenuto delle cose e dal rapporto di questo contenuto con la democrazia. In secondo luogo, perché molti intellettuali credono che proprio questa popolarità della televisione sia una nuova specie di mitologia e che da essa nascano certe nuove forze collettive di convincimento. Queste forze di persuasione hanno una finalità ideologica ben precisa, mentre gli intellettuali travestono tutte queste belle parole dicendo che si tratta di forze collettive mille del mondo. Recentemente in America si è avvistato il caso di Giorgi, che con idee come queste hanno fatto addirittura. Altre parole intellettuali soltanto quando tradiscono la loro natura specifica intellettuale mettendosi al servizio di questa ideologia dominante, così come critico in certo modo di usare la televisione, ma non la televisione come mezzo tecnico e come tale invece di assolutamente positive e di enorme possibilità. Comunque anche questo è un'area in generale, l'Europa è completamente diversa. ritirarsi degnosamente nel silenzio. È d'accordo, è d'accordo. Capisco molto. Un'ultima domanda, professor Adolfo. Ci sono molti uomini di cultura qui da noi che cercano tempo anche di interpretare il pensiero, sostengono che l'intellettuale, di fronte ai mezzi di comunicazione di massa, decisione d'altro, non ha che una sola possibilità, ritirarsi degnosamente nel silenzio. È d'accordo. Dicendo tempo anche di interpretare il suo pensiero, sostengono che l'intellettuale, di fronte ai mezzi di comunicazione di massa, decisione d'altro, non ha che una sola possibilità, ritirarsi degnosamente nel silenzio. È d'accordo. Decisione d'altro, non ha che una sola possibilità, ritirarsi degnosamente nel silenzio. E dai mezzi di comunicazione di massa, decisione d'altro, non ha che una sola possibilità, ritirarsi degnosamente nel silenzio. Capisco il senso. Degnosamente nel silenzio. È d'accordo, sì, degnosamente nel silenzio. Non ha che una sola possibilità, ritirarsi degnosamente nel silenzio. Non ha che una sola possibilità, ritirarsi degnosamente nel silenzio. Nel silenzio. È d'accordo. Capisco molto bene il significato di questa domanda. Questo vuol dire come vuoi, che ti poni e questo atteggiamento nei confronti della televisione e dei mezzi di comunicazione di massa, non servirti a di questi stessi. A questa domanda io rispondo semplicemente che non sono nella sua che si possa isolare nel silenzio e tirare indietro. Questo significherebbe semplicemente una ricaduta al di sotto del livello della tecnica. Al contrario, bisogna cercare per quanto è possibile e nel migliore dei modi di dare agli strumenti una funzione nuova, cioè esprimere e fare nell'ambito di questi mezzi cose che superino i confini della dominante pulinanda della ideologia commerciale, dare agli strumenti una funzione nuova, cioè esprimere e fare nell'ambito di questi mezzi cose che superino i confini della dominante pulinanda della ideologia commerciale. E siccome questa libertà critica esiste, sia non solo in questo, ma vorrei dire il dovere intellettuale di entrare nel mondo critico all'interno di questi stessi mezzi di massa. Ma io sono un dialetto incorreggibile e questo si sente nelle mie parole. Incorreggibile e questo si sente nelle mie parole. All'interno di questi stessi mezzi di massa. Ma io sono un dialetto incorreggibile e questo si sente nelle mie parole. Thank you. of the road. In the middle of the road. That's not very poetical, is it, in English? No, well, we can take certain liberties. Don't translate us always. I mean, take certain liberties in order to maintain the beauty of it and the meaning at the same time. And, for example, we could say, instead of saying in the middle, we could say midway. And instead of saying of the road, sono di dimensioni. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Dove posso avere un piacere? Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Le ali scintillanti contrarie. Io adoro solo un piacere. Io adoro solo l'oscurità. Le ali scintillanti contrarie. Che la gioventù piaccia una traccia, una traccia, una traccia. Io adoro solo l'oscurità e le ombre. Dove posso essere solo, solo, solo. Sì, sì, sì. Io sono discendenza antica famiglia, famiglia. Il tempo è un abisso. Un abisso. Discendenza antica famiglia, famiglia. Tempo è un abisso. Io sono discendente antica famiglia, famiglia. Il tempo è un abisso. Io sono discendente antica famiglia, famiglia. Il tempo è un abisso. Profondo come lunghe infinite notti. Secoli, secoli, va. Non avere la capacità di intecchiare. Profondo come lunghe infinite notti. I secoli, secoli, va. Profondo come lunghe infinite notti. Infinite notti. I secoli, secoli, va. Infinite notti. Infinite notte, profondo come lunghe infinite notte, i secoli secoli vanno, i secoli secoli vanno, non avere niente, i secoli secoli vanno, profondo come lunghe infinite notte, i secoli secoli vanno, non avere capacità di chiedere. E ogni giorno che il giornale deve essere. È la nostra è la nostra. Abbiamo tutto. E ogni giorno che ci rimane deve essere diverso. Si accomodi, prego. È la nostra ultima cena. Abbiamo tutti la peste. E ogni giorno che ci rimane deve essere una festa. Io al sole non attribuisco bene. Sperimentando ogni giorno le stesse futili. Si accomodi. Mane deve essere una festa. Io al sole durare attraverso i secoli della morte. Riesce il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesce a immaginarlo. Durare attraverso i secoli. Morte. Riesce a immaginarlo. Durare attraverso i secoli. Riesce a immaginarlo. Durare attraverso i secoli. Riesce a immaginarlo. Durare attraverso i secoli. Riesce a immaginarlo. Durare attraverso i secoli. Città di invecchiare. È terribile. La morte non è il peggio. La morte non è il peggio. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesce a immaginarlo. Durare attraverso i secoli. Sperimentando ogni giorno le stesse futili cose. Si accorge. È la nostra ultima cena. Abbiamo tutti la festa. E ogni giorno che ci rimane deve essere una festa. Si accomodi. È la nostra ultima cena. Abbiamo tutti la festa. E ogni giorno che ci rimane deve essere una festa. Thank you. forse questa? Pere penne d'Avila. Belle, vero? Penso che qui mi debba fermare. Non ho il diritto di indossare questi ordini. Non sono un eroe né un profeta. Come molti di voi, ho fatto del mio meglio per sopravvivere. La sola cosa che mi dà il coraggio di stare qui davanti a voi stasera è la consapevolezza, la certezza che quello che vi dico è vitale per la nostra sopravvivenza. Non siamo i padroni della terra. Siamo i suoi figli. Sapete che dirò di smettere di tagliare le foreste. Sapete che dirò che il denaro ottenuto non vale il prezzo che pagate. Ma c'è qualcosa di più. Se ora noi insieme diciamo che certe cose non sono le che certe cose appartengono a tutti quanti noi e alle future generazioni. Può darsi che altri ci sentano e iniziano a dirlo anche loro. E un giorno saremo abbastanza numerosi e ci convinceremo che si può fare, che si può davvero cambiare il mondo. E se cominciassimo ora da questa terra, dal Canada, qui, stasera, Yeah. Zabana mayo, soy gallo chamacho, en molte cose appartengono a tutti quanti noi e alle future generazioni. Può darsi che altri ci sentano e inizino a dirlo anche loro. E un giorno saremo abbastanza numerosi e ci convinceremo che si può fare, che si può davvero cambiare il mondo. E se cominciassimo ora da questa terra, dal Canada, qui, stasera. Non parlò mai più. Quella sera, mentre osservavamo Archie smettere le vesti della sua mascherata da finta indiana, capii che quello che diceva era molto più importante di chi fosse realmente. Dopodiché scomparve in silenzio dalla scena e si ritirò nella sua cavalla sperando la sciacquante. Morì lì, in improvviso di polmonite, 2 anni fa, nell'aprile del 1913. In considerazione dell'obiettivo che Archie cercava di raggiungere, il Lord Baynard accettò di sospendere il giudizio finché fosse rimasto in silenzio. Lo pubblicarono il giorno dopo la sua morte e Archie conquistò le prime pagine dei giornali. Poi non interruppe mai la campagna contro la caccia con le trappole e lentamente, perché il suo e gli Archie furono approvate leggi a protezione del tesoro che tornò a popolare i laghi e il fiume del Canada. Ma non appena la vera identità di Archie si rivelava, il suo prematuro grido di allarme vicino alla struttura e il suo invito a conservare le future generazioni furono prontamente accantonati. E poi, opportunamente, solo molti anni più tardi, quando la verità non cercava più a essere entrata, egli fu riconosciuto come un uomo che aveva percorso il suo destino. Hai visto, musico così numeroso, la certezza che quello che ti dico è vitale per la nostra sopravvivenza. Sola cosa che mi dà il coraggio di stare qui davanti a voi stasera è la consapevolezza, la certezza che quello che ti dico è vitale per la nostra sopravvivenza. Non siamo i padroni della terra. Guaritia sofoni, guaritia che via così mi dico. Non siamo i padroni della sede. Siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi. Non siamo i padroni della sede. Siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo. Sa che mi dà il coraggio di stare qui davanti a voi stasera. È la consapevolezza, la certezza che quello che vi dico è vitale per la nostra sopravvivenza. Non siamo i padroni della sede. Siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi, siamo i suoi. Giacciamo nel grembo della creazione. Tra le forti braccia più grande del nostro.

Incontrollato di antimateria potrebbe minacciare la stabilità del nostro intero sistema solare. Ogni forma di vita potrebbe essere distrutta. Maggiore, desideriamo che lei mandi un messaggio personale da Marte tramite la laser a quello che noi speriamo sia il progetto Lima. Ci troviamo di fronte a una crisi di proporzioni sconosciute. Contiamo su di lei perché ci aiuti a trovarlo. E dei nostri, Sì, certo, sì, certo. sta bevendo sangue in chirurgia oculistica. Quello che sta bevendo sta usando in chirurgia oculistica. È chiuso qui dentro da 2 settimane. Insisto, lei deve uscire all'aria aperta. Chiuso qui dentro da 2 settimane, insisto, lei deve uscire all'aria aperta. c'è niente che sia di interesse da fuori del mondo. Nulla. Non c'è niente che sia di interesse da fuori del mondo. Non posso darle tutto. La mia mente si ribella al contrario. Datemi problemi, datemi lavoro. Putrefazione. Io, con la teoria musicale, ho creato un ordine. Dal caos. Putrefazione. Io, con la teoria musicale, ho creato un ordine. Dal caos. Putrefazione. Io, con la teoria musicale, ho creato un ordine. Dal caos. Putrefazione. Io, con la teoria musicale, ho creato un ordine. Dal caos. Io, con la teoria musicale, ho creato un ordine. Dal caos. Thank you. cani inferociti, con l'ascendente in camera, pastorizzati, miniaturizzati, i belliciosi set, gatti furiosi, fotografati in camera, felini organizzati, in ferocissime gang voodoo, cani inferociti, gatti annoiati, conigli scatenati, in belliciosi set, il parasaurolofo, col suo digno sonico, v'avrebbe ammazzati. 45 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, ai controlli. Boh, non sappiamo quanto è durato. Siamo ritornati al delirio. Le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Do 61 80 40 01 il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00185 Roma San Lollo. 0649175 recapito telefonico. ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni. 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info per le vostre lamentele. La Periror, l'aperitivo a sostegno di Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa è lieta di presentare gli aperitivi di finanziamento al CSO ex SNIA Viscosa una volta al mese. Si inizia sabato 20 novembre dalle ore 18 in poi. Con le trasmissioni della radio del sabato pomeriggio che si trasferiscono in quel della SNIA. E quindi le selezioni jazz di Salpinaz. E disaccordo, quindi. Con il live presentato appunto durante il disaccordo dei Pippo Paolo Lost in Time, cucina per assaggi e cocktail da bere mentre si ascolta e si vede la radio e soprattutto mentre la si sostiene. Free entry tutti e tutte il 20 di novembre, sabato prossimo, all'ex SNIA. Le trasmissioni della radio finiscono con noi in diretta. Vi terrà compagnia la compagna automatica Sonata con le sue selezioni musicali, le sue repliche. Si riprenderà in diretta alle 8 di domattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina e redazionali che andranno in onda dalle 10 alle 12 o finché ce n'è bisogno. Si riprende dopo un po' di pausa con tutta scena cinema, Attica Blues oltre la Black Music dalle 16. Dalle 17 alle 19 la Schiena del Soul e dalle 20 e 15 alle 21 e 30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa, è a chiudere i Cuginetti di Apostasia. Noi abbiamo chiuso, diciamo, il delirio con White Rabbit di Jefferson Airplane, in attesa che sia la corona sonora del prossimo Matrix in uscita a gennaio del 2022, Resurrection. Scegliete sempre la pillola rossa. Il nostro saluto più importante al solito va a tutte e tutti coloro costretti malattie costrette a condizioni di libertà, limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari. I centri di detenzione per migranti. Tutte quelle soluzioni amministrative, decreti che limitano ulteriormente le nostre libertà. E così, non facciamo altro che darvi a risentirci per il prossimo mercoledì. Vediamo che esce fuori. Capito? Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Bella a tutti e a tutte. Dai. Times comes radical.